Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, all'ultima edizione di Clima House, storica fiera dedicata al mondo dell'edilizia, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica nel mondo delle costruzioni. Hanno vinto sia il premio della giuria che il Clima House Future Hub Award 2020. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di FBP, acronimo di Future is a Better Place, una startup innovativa del gruppo Focchi, composta da Marco Scaramelli, Gaetano Lapenta e Cedric Tobaldo Togna. Questa startup ha presentato in anteprima Fibra, un sensore pensato per rilevare la qualità dell'aria all'interno delle classi scolastiche, indicando quando l'aria diventa troppo inquinata, poi capiremo meglio, all'interno della stanza, e di conseguenza quando è il momento di aprire le finestre. E allora, come vi dicevo, cerchiamo di capire un po' meglio di che cosa si tratta con l'aiuto del direttore generale di FBP, Gaetano Lapenta. Buonasera Lapenta, benvenuto. Buonasera, buonasera, grazie. Allora, forse vale la pena di cominciare ricordando il rapporto che c'è tra la qualità dell'aria indoor, quindi al chiuso, e la qualità dell'aria outdoor, di cui sempre stiamo lì a lamentarci, no? Eh sì, proprio in questo periodo sentiamo tanto parlare di qualità dell'aria outdoor e anche delle possibili soluzioni, quando in realtà tutta la comunità scientifica ci indica come invece la qualità dell'aria indoor come il vero problema da affrontare, perché all'interno gli edifici chiusi la quantità di inquinanti è molto maggiore e spesso anche la possibilità di disperdere questi inquinanti è il vero problema. Addirittura l'OMS ci dice che in particolare i nostri ragazzi trascorrono il 90% del loro tempo all'interno di edifici chiusi, e capiamo che la loro qualità della vita è seriamente definita da quello che respirano quando sono al chiuso. Ecco, spesso si sente dire che insomma la qualità dell'aria all'interno dei locali chiusi è 4-5 volte peggiore di quella esterna, perché naturalmente a tutti gli inquinanti esterni si sommano le sorgenti di inquinamento interno. Pensiamo banalmente ai fornelli accesi in una cucina. Allora, ricordiamo però che una sostanza che non è un inquinante, e cioè la CO2, anche lei ha degli effetti sui nostri alunni. Assolutamente sì, anche qui la letteratura è unanime, anche studi molto recenti ci confermano che un'aria satura di CO2 comporta un decadimento delle capacità di apprendimento, addirittura fino al 20% di minore capacità di apprendimento, e non solo, anche la trasmissione di malattie per via aerea aumenta. Quindi all'interno di ambienti chiusi dove non c'è un adeguato ricambio d'aria aumentano anche le malattie e i giorni di assenza per malattia. Molto chiaro, molto chiaro. Allora, parliamo un po' della tecnologia, e quindi di questo che non è in realtà un semplice sensore, diciamo è un sistema di monitoraggio. Come funziona? Cosa potete dirci a proposito? Allora, questo è un sistema che noi abbiamo brevettato, che combina una parte hardware, quindi un sensore un po' particolare di cui poi magari se hai voglia possiamo anche entrare un po' nel dettaglio, con un algoritmo. Cosa fa l'algoritmo? Prevede l'andamento degli inquinanti indoor, di cui la proxy che noi abbiamo individuato essere la migliore è proprio la CO2. Quindi l'indicatore è la concentrazione della CO2, che indica in generale la qualità dell'aria, sì? Esatto, e prevede l'andamento e quindi è in grado di prevenire quando è il momento di ricambiare l'aria. Quindi ci dice un attimo prima che l'aria... Che la gente si addormenti, che è il momento di aprire le finestre, insomma. E non solo. Esatto, calcola anche quant'è il tempo ottimo di ventilazione per quell'ambiente specifico, grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale che ha imparato nel tempo come si comporta il ricambio d'aria. Sappiamo anche dire quando è il momento di chiudere per evitare uno spreco di calore, quindi un consumo eccessivo di energia. Cosa ci puoi dire di più del sensore che misura la concentrazione di CO2? Allora, si tratta di un sensore ottico che è in grado di rilevare la quantità di frequenze infrarosse che la CO2 assorbe, per cui rileva l'andamento degli infrarossi nell'aria e quindi capisce quanta CO2 c'è. Tra l'altro proprio la capacità di assorbimento da parte della CO2 e degli infrarossi è la base dell'effetto serra, e voi utilizzate lo stesso effetto per misurare di fatto quindi la concentrazione di CO2 nell'aria. Allora parliamo invece del progetto che è di diffondere nelle scuole questa attrezzatura. A che punto siete? Allora, il progetto ha circa un anno di vita, nel senso che con il primo prototipo abbiamo fatto un anno di sperimentazione su quasi un migliaio di studenti, che ci ha portato poi a industrializzare questo sensore, perché abbiamo visto che aveva degli effetti veramente interessanti, fino al 50% di CO2 in meno nelle ore di picco. Noi abbiamo chiuso la sperimentazione alla fine del 2019, abbiamo depositato il brevetto nel 2020 e abbiamo già cominciato a fornire il servizio, perché il sensore non viene venduto alle scuole ma viene dato gratuitamente. Facciamo pagare l'accesso ai dati sulla nostra piattaforma di monitoraggio con una piccola fee che viene calcolata per studente, sono circa, diciamo, di listino adesso, se sì approssimativamente parte, non è un preventivo questo sui 5 euro al mese a studente. E in più viene dato la possibilità ai professori di lavorare sul materiale, quindi i dati che vengono scaricati, anche a finalità didattiche, quindi elaborazioni statistiche, verifiche del metodo scientifico, che è un po' anche il nostro obiettivo, quello di diffondere la cultura della qualità dell'aria anche attraverso studenti e famiglie, insomma. Grazie. Allora, grazie Gaetano Lapenta, e come diciamo qui a Smart City, avanti così. Avanti così. Ciao, grazie. Bene, cari ascoltatori, anche per questa sera abbiamo concluso. Io vi do, come sempre, appuntamento a domani. A voi tutti buona serata.